la situazione storica dove nasce questa parabola. Siamo nel Tempio di Gerusalemme e Gesù è attorniato dai poteri forti, i quali detestano questo profeta, questo rabbi, questo maestro che proviene dalla Galilea. Narra un volto di Dio così estraneo alla loro categoria, al loro schema di Dio, su Dio. Perciò lo mettono alla prova. Gli chiedono con quale autorità egli insegni, operi, guarigioni anche. E Gesù, che non è stupido, a questa domanda risponde con un'altra domanda. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo oppure dagli uomini? E di fronte al loro imbarazzo, Gesù dice: neppure io vi dico con quale autorità agisco. Con quale autorità tu parli? Nella coscienza del cristiano, si dica tale, abita un conflitto, abita, e che si potrebbe esprimere così, un conflitto tra teoria e pratica, tra il dire e il fare, tra desiderio e realtà, tra buone intenzioni e azioni concrete, cioè tra dirsi cristiani ed essere cristiani. Se questa è la provocazione che ci viene dalla parola di Dio, mi sembra che si possano fare alcune considerazioni. Io ne propongo due tra le altre che si potrebbero fare. La prima è questa: quando diciamo faccio la professione di fede, qual è la figura, qual è il modello che la fede costruisce? Ci aiuta a riflettere San Paolo, che scrivendo ai cristiani di Filippi li esorta ad essere pieni di amore con gli altri, e ci si stufa anche di sentircelo dire e di anche di dircelo. Cioè vuol dire la misura, il modello è sempre Gesù Cristo. Essendo Dio non lo ritiene un privilegio, ma diventò simile agli uomini. Non è rimasto geloso di essere Dio, si è però reso geloso degli uomini. Questo è il punto di riferimento per le persone, per le chiese, per le comunità, soprattutto di coloro che si dicono di credere in Gesù Cristo. E quando si usa la parola sentimenti, questa parola va considerata come avere lo stesso progetto di esistenza di Gesù Cristo. Riassumendo, dire che Dio è amore è scontato, ma che questo Dio si manifesti verso il profondo della condizione umana, questo è l'evento che sconvolge, questo è l'evento che crea anche le crisi della mia coscienza, non solo della vostra. Penso. Una seconda riflessione allora. Gesù nel Vangelo parla di fare la verità. Spiega ai poteri forti, ai sacerdoti, agli anziani del popolo, gli scribi, i farisei. Sono forti perché si autodefiniscono i giusti, ma giusti perché si ritengono obbedienti con scrupolo alla forma della legge. La legge dice, non si pongono il problema, ma sotto la legge cosa ci sta e come va letta la legge e come va applicata la legge. Chi è che fa la volontà del Padre? Chi dice sì e poi non va, o chi dice di no e poi va? È un paradosso sconcertante. Gesù condanna la pratica di questi suoi interlocutori che si limitano all'osservanza, alla vigilanza della legge, come se le esperienze, le vicende di vita delle persone possano essere così abbassate a un livello di insignificanza di fronte alla legge. Voi capite che fare un discorsino così si allarga tutte le problematiche che in questo periodo di tempo stanno, grazie a Dio, emergendo. Quindi Gesù capovolge, esemplificando con un'affermazione scandalosa: i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno. Faccio osservare, non indica i mestieri che danno un passaporto di ingresso al suo regno. Vuol solo chiarire qual è il suo regno e toglierlo dalle mani di chi conta, di chi pensa di avere il monopolio dei passaporti verso il regno. I pubblicani e le prostitute hanno accolto l'invito. Voi no. Un giudizio terribile. Concludo, tra le tante altre cose che si potrebbero dire, sono sempre più stimolato a capire quali sono i meccanismi che nelle chiese, nella società, producono le cosiddette buone coscienze. Si fa in buona fede e tutto si giustifica. Ancora, mi è difficile credere, ingenuità, che chi agisce in contraddizione con se stesso sia in malafede. Mi è difficile credere che chi agisce in contraddizione con se stesso sia in malafede. Penso che sia in buona fede, altrimenti è un bugiardo. Fra ciò che professiamo e ciò che facciamo corrono una serie di compromessi, chiamiamoli così, di luoghi comuni, di abitudini, di incrostazioni, per cui la contraddizione tra i due estremi non si avverte. Dire di sì ma non, dire di no ma sì. Non è questione di sentirsi buoni o cattivi, a posto o non a posto. è questione di ricercare sempre più, magari dopo che si è anche pregato, andate a messa, fate la comunione, seguite i comandamenti, però abbiate i sentimenti di Cristo. Allora anche l'andare a messa forse cambia di significato. Dico a messa per dire poi tutto i sacramenti, compreso quello del matrimonio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace a te, agli uomini di buona volontà.